24 mattino. Ed eccoci di nuovo, le 7:16 minuti e 54 secondi, la seconda parte di 24 mattino, al microfono sempre Simone Spezia, la parte dedicata alla rassegna stampa, non prima di una risposta dovuta a un'ascoltatrice, Stefania, la quale dice che, insomma, che il sarcasmo maschilista che ho dimostrato è stato smontato da Agnese Pini. Si parlava di questo... del rapper di Junior Colli che appunto sarà a Sanremo e che in passato ha scritto dei testi chiaramente sessisti. E io ho citato il caso di Vasco Rossi che andò a Sanremo nell'82 e aveva già scritto Colpa d'Alfredo, che iniziava in una maniera terrificante oggettivamente. Mi dice Stefania che sia già avvenuto in passato significa non capire ottusamente che i tempi sono mutati rispetto a 20-30 anni fa. Allora, forse non, come dire, su questo non sono stato abbastanza chiaro per come la penso, poi ovviamente è tutto discutibile. Il punto è che sull'arte, qualsiasi cosa si consideri arte, ammesso che possiamo considerare la canzone di un rapper di quel tipo arte, e forse lo è, non lo so, non sta a me giudicare, ci sono dei margini di, chiamiamola, flessibilità su quello che si può dire e non si può dire, per esempio nel testo di una canzone. Perché magari il riferimento è un altro, si vuole rappresentare una realtà e non si vuole rappresentare se stessi. Io questo sinceramente non lo so. E quindi su questo molto semplicemente sospendo il giudizio, cioè non ho un giudizio nettissimo. Tranne quello che, per così dire, tutto fa spettacolo in questo caso e tutto fa parlare di Sanremo. E poi qualcuno ci manda un messaggio audio, no? Solo ora ci si rende conto del testo di questo soggetto. Francamente discutibile è anche la sua presentazione, perché salire sul palco, insomma, fare della sua immagine un volto coperto da una maschera è inquietante e sicuramente non lo trovo edificante in questo momento storico. È così anche un'ascoltatrice, un'altra dice quanto ti pagano per cercare di difendere l'indifendibile. Non mi paga nessuno per difendere l'indifendibile, mi pagano per fare questa trasmissione e basta. Va bene, veniamo alle pagine dei quotidiani. Comunque vedo che questo tema Sanremo continua a scaldare, le pagine dei quotidiani, le aperture, come sempre un'occhiata rapida. La Repubblica ne sceglie due: la Libia con l'Europa che strappa un'intesa fragile, le sardine, però è su questo il titolo forte, l'alternativa siamo noi è il titolo. Il Messaggero: tregua in Libia, il patto dell'Unione Europea al vertice di Berlino, primo accordo sul monitoraggio per il cessate il fuoco ed embargo delle armi. La Stampa apre con un'intervista a Maurizio Landini della CGIL, in pensione a 62 anni, dice. Il Fatto Quotidiano su Salvini, l'ultima giravolta, dopo aver strillato per l'impunità, ora chiede il processo. Il Corriere della Sera, anche qua sulla Libia, una mini tregua sulla Libia, scrive. Sarraj e Haftar si evitano, il ministro russo Lavrov parla di piccoli passi avanti. Il Giornale, trappola fiscale, tasse, rimborsi a rischio, dal 1 gennaio non sono detraibili spese in contanti, sanità, casa e scuola, ecco come salvarsi dalla stretta. La Nazione, le sardine sfidano Salvini e il PD. Libero, i nostri soldati sono attivi in 30 paesi del mondo, follia. Spendiamo molti soldi per niente. La Verità, ecco il piano della sinistra per far ripartire l'invasione, ci si riferisce ai migranti. Il Sole 24 Ore, il Sole 24 Ore del lunedì, 10 card a sostegno delle famiglie e dei giovani. Questo il titolo di apertura e poi la via stretta dell'IRPEF leggera, su appunto sulla riforma dell'IRPEF. Infine la Gazzetta dello Sport, CR fa 7 e ciao, doppietta in gol da 7 gare di fila Cristiano Ronaldo, Juve in fuga, +4. Ed eccoci, iniziando però da qualche insomma notizia laterale, come sempre, che troviamo sui giornali. Poi più avanti verremo nella parte centrale della nostra rassegna stampa con Paolo Mieli a commentare l'attualità politica, la Libia, come sempre facciamo. E però oggi voglio iniziare dal Sole 24 Ore, perché ci presenta nella sua appunto edizione del lunedì una storia che trovate a pagina 21 e che ha a che fare con una sentenza di tribunale... insomma, che potenzialmente può far discutere, perché scopro dal pezzo di Marisa Maraffino che esiste un'enorme giurisprudenza e molto varia sul tema del tradimento ai tempi di internet, ai tempi dei social network. E l'ultima qual è? Che il selfie con l'amante non basta all'addebito della separazione, ci racconta Marisa Maraffino. È una sentenza che ovviamente ha a che fare col diritto di famiglia. Non basta un selfie per dimostrare l'adulterio, nemmeno se il presunto amante viene ritratto a torso nudo sul letto della moglie. Lo ha stabilito la Corte d'Appello dell'Aquila con la sentenza 2060 del 16 dicembre scorso, che ha precisato che le fotografie compromettenti si presterebbero a spiegazioni alternative, chissà quali. Per i giudici, infatti, se le fotografie non mostrano alcun atteggiamento intimo e di particolare vicinanza tra le parti, non possono provare la relazione extraconiugale. La causa trae origine dall'appello contro la sentenza del Tribunale di Pescara, che non aveva riconosciuto l'addebito della separazione in capo alla moglie, colpevole secondo il marito di tradirla con l'uomo con il quale faceva costantemente selfie e fotografie ambigue. Dunque, non bastano quei selfie, quelle fotografie ambigue, a provare che c'è tra la donna e un uomo relazione. I selfie, del resto, dicono i giudici, rientrano ormai nelle abitudini degli utenti dei social network, non possono di per sé dimostrare un rapporto intimo con la persona con la quale vengono scattati, né rappresentano un'offesa alla dignità del coniuge. Ci sono tutta una serie, apprendo adesso, di precedenti, no? A prescindere dal riconoscimento dell'addebito, può dar luogo a un illecito civile, per esempio cambiare il proprio status su Facebook da sposato a separato, quando la causa è ancora in corso, perché si tratta di una condotta che lede pubblicamente la dignità e la reputazione del coniuge, quindi sappiatelo nel caso, eventualmente. Nei casi ritenuti più gravi, il tradimento può anche far revocare le donazioni in favore del coniuge adultero. Il fatto viene ritenuto grave quando nei centri medio-piccoli ci si fa vedere in pubblico con l'amante in atteggiamenti inequivoci, oppure quando si postano sui social network fotografie in atteggiamenti amorosi che appunto però devono essere inequivoci. Una foto a torso nudo sul letto non basta. Veniamo a un altro polemicone che si sta scatenando soprattutto a Milano, ma non solo, da un paio di giorni, da quando il sindaco di Milano Beppe Sala ha detto: bene, tra breve verrà vietato il fumo alle fermate dell'autobus e del tram. Insomma, non si potrà fumare alle fermate dell'autobus e del tram per rispetto degli altri viaggiatori, anche per questioni di inquinamento. Non solo, dice Sala, entro il 2030 l'idea è di vietare del tutto il fumo all'aperto. Qua, vabbè, insomma, è scattato il dibattito a Milano, ma non solamente a Milano, naturalmente. Qua il quotidiano La Repubblica, nella cronaca milanese, intervista l'attore comico Paolo Rossi, che dice: andrò a piedi per scavalcare il divieto, e poi raccoglie un po' di voci piuttosto che prendere l'autobus, insomma, per poter fumare tranquillamente preferisce andare a piedi, sarà un beneficio evidentemente per la sua salute, mentre Simone Bianchin raccoglie un po' di voci di milanesi che, insomma, con una qualche perplessità, no? Non dice, per esempio, Luca Colferai, professore e fumatore: non mi sarei mai aspettato una presa di posizione del genere da parte di un sindaco che si definisce democratico, a parte che non mi è chiaro che tipo di fumo si intenda vietare. Mi chiedo se il provvedimento colpirà solamente le sigarette. Da Milano ci spostiamo a Roma, dove invece si torna a parlare della questione dei rifiuti. Bel pezzo di Alessandro Barbera e una doppia pagina, insomma, l'inchiesta della Stampa si snoda su due pagine e fa finalmente un punto anche numerico sulle condizioni della capitale. I rifiuti qui costano la più alta tariffa comunale d'Italia, 268 euro l'anno, scrive Barbera. Nei 10 minuti in cui la Raggi confermava ai giornalisti la decisione di bloccare le Euro 6, partiva il viaggio di un tir rigorosamente diesel di vecchia generazione verso uno dei termovalorizzatori e discariche sparsi in 8 regioni. Ogni giorno dai depositi AMA partono fra i 160 e i 180 auto articolati, 7 ogni ora, e nei prossimi mesi saranno molti di più. Per darvi l'idea di quello che sta per avvenire, dal 15 gennaio è chiusa per sempre anche la discarica di Colleferro, un impianto in grado di accogliere ogni giorno oltre 1000 tonnellate di materiali, ed è arrivata al limite di utilizzo. L'AMA ormai gestisce un solo stabilimento a Rocca Cencia, ma presto dovrà essere chiuso per manutenzione. Oggi l'autonomia del comune nel trattamento e smaltimento dei rifiuti è ridotta al 23%. Quando chiuderà Rocca Cencia, quella percentuale scenderà a zero. A zero, eh? Roma avrà zero capacità di gestire i suoi rifiuti, una percentuale che a Milano invece sfiora il 100%, racconta Alessandro Barbera. Per dare una misura della condizione dell'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti a Roma, Prati, un quartiere pieno di platani centenari, nessuno ancora ha raccolto le foglie autunnali. Nei palazzi capitolini si stima che il 40% dei mezzi sia fuori uso. Il tasso di assenteismo è schizzato dal 12 al 20%. Solo a dicembre, chissà perché, sono raddoppiati gli inabili al lavoro, da 88 a 166. La raccolta differenziata è scesa al 42%. Se non si trattasse di un'azienda pubblica foraggiata dall'auto di trasferimenti, scrive Barbera, AMA sarebbe fallita da un pezzo. Ha cambiato 7 manager in 3 anni e mezzo e non approva un bilancio dal 2016. E questo è il racconto da Roma di Alessandro Barbera. L'inchiesta invece del lunedì del Corriere della Sera, firmata da Milena Gabanelli e Andrea Pasqualetto, ci porta, e siamo a pagina 11, sui ponti italiani, ma non quelli in questo caso controllati e gestiti da Autostrade, ma quelli controllati e gestiti dall'ANAS. 3.500 ponti fuori controllo, scrivono nel titolo, dove fuori controllo non vuol dire che siano a rischio, vuol dire semplicemente che sono esattamente fuori controllo. L'allarme era stato lanciato un anno fa. 992 ponti che attraversano strade e autostrade italiane gestite da ANAS, costruiti in buona parte negli anni 60, erano senza padrone. Non avevano cioè un proprietario certo che provvedesse alla manutenzione. La mappa era stata realizzata dopo che ci scappò il morto, anno 2016, cavalcavia di Annone. Dietro il crollo c'era la mancata cura della struttura dovuta al fatto che nessuno sapeva di doversene occupare, mentre il traffico pesante continuava a passarci sopra. In attesa di capire se queste strutture sono in carico a province, comuni o consorsi, il ministero tranquillizzava tutti chiedendo ad ANAS di sorvegliarli al fine di assicurare l'incolumità della vita umana. Un anno dopo, a che punto siamo? I ponti in questione sono stati controllati? Risposta: ci sono ancora 763 cavalcavia senza identità. E su questi non sono state fatte ispezioni approfondite, tranne quelle dei cantonieri che a vista vanno e dicono: ah sì, questo è sicuro, questo non è sicuro. Il caso Campania, riportano, no? A Orta di Atella, l'allora sindaco Andrea Villano, sulla statale 7bis, professione ingegnere, aveva chiuso al traffico 3 cavalcavia perché sul manto stradale si erano aperte delle grosse fessure, sulla statale sottostante cadevano pezzi di impalcato. Siamo nel gennaio dell'anno scorso. Siamo tornati sul posto pochi giorni fa, nessun intervento è stato fatto, i ponti sono sempre più malandati, i calcinacci continuano a cadere sulla strada e i buchi sono sempre lì. Eppure per ANAS non sono emerse forti criticità e il sindaco, ex sindaco, perplesso, mostra un pezzo di calcestruzzo che è appena caduto dal ponte che tiene in una mano. A proposito di spese che si dovrebbero fare e che non si fanno o che sono mal gestite o mal pensate, evidentemente, sempre il Corriere della Sera, pagina 17, ci porta sul tema ancora una volta del terremoto. Ci siamo occupati la settimana scorsa del fatto che i soldi per il sisma, per la ricostruzione, non sono stati spesi, ma non sono solamente quelli. Ve lo ricordate il sisma bonus? Quel bonus fiscale che deve servire a mettere a norma gli edifici, a renderli immuni o quantomeno più sicuri per i terremoti. Una detrazione fiscale molto alta, racconta Mario Sensini a pagina 17 del Corriere, fino all'85% della spesa sui lavori per rafforzare la resistenza sismica degli edifici, a fronte di un budget di 2 miliardi di euro autorizzato dall'Unione Europea per gli incentivi, nel 2017 sono stati erogati appena 14,6 milioni su 2 miliardi di sisma bonus, 14,6 milioni. Il governo ha spiegato all'Unione Europea a posteriori come è stata utilizzata la flessibilità di bilancio, mettendo sotto la voce terremoto le piastrelle, i doppi vetri, le caldaie, i parquet. Pausa. Mattino. Ed eccoci nella parte centrale della nostra rassegna stampa, quella dedicata ai temi di primo piano sui quali ovviamente domina la Libia. Buongiorno Paolo Mieli, ciao direttore, eccoci. Eccoci qui, siamo pronti. Allora, per quella che il Corriere della Sera definisce una mini tregua, quella che la Repubblica definisce un'intesa fragile, quella che il giornale, per così dire, quasi ci scherza su, dice tutti d'accordo sulla Libia, tranne i libici in guerra, perché Haftar e Sarraj non hanno firmato. Cosa emerge da Berlino ieri? Emerge che il titolo più ottimista è quello fatto dal Messaggero, che dice tregua in Libia. In realtà, come appena detto, tutti gli altri giornali dicono, e con carità di patria, mini tregua, carità di patria, perché questo vertice è stato sostanzialmente non dico un insuccesso, ma insomma non è stato quello che ci aspettavamo. Il generale Haftar, quello che si contrappone a Sarraj e che è sostenuto dall'Egitto, come racconta un articolo di Paolo Valentino sul Corriere della Sera, neanche si è fatto trovare. La Merkel continuava a chiamare nella sua stanza e lui non rispondeva, non ha risposto, non ha firmato, e in serata tra l'altro si sono sentiti spari a Tripoli. Insomma, chiamiamolo quello di Berlino, come lo chiama l'articolo di Maurizio Caprara, sempre sul Corriere della Sera, un mezzo passo avanti. Sì. Accontentiamoci di questo. C'è una divertente fotografia su Repubblica del vertice. In genere questi vertici hanno poi alla fine delle foto che sono tutti composti, invece lì non c'è neanche compostezza e hanno tutti litigato, perché il primo ministro inglese Boris Johnson si è messo a scherzare, a chiacchierare con il capo della Lega Araba Abul Ghei. Lì si vede la foto, gli indica, non si capisce bene che cosa, e la foto è venuta, persino la foto dove il nostro primo ministro Conte in secondo piano, persino quella foto è venuta scomposta. Sì, con tutti che guardano da una parte, con i principali leader che guardano da una parte, almeno quelli che si sono accorti che stava succedendo qualcosa, e però insomma senza, un po' scomposta. Ascolta, sul fronte del ruolo dell'Italia, no, qua, visto che siamo su Repubblica, pagina 4, Tommaso Ciriaco sulla rincorsa di Conte, questo pressing sugli Stati Uniti per dare un via libera a una missione delle Nazioni Unite che Conte spera a guida italiana. Ieri c'è stato questo incontro con Pompeo, che comunque è rilevante, però insomma è difficile ottenere il risultato. Sì, mi sembra difficile, è un po' anche ridicolo questa corsa ad avere una missione, mandare i nostri soldati lì e per averne il comando, come se tutta la partita fosse questa. Io devo dire, sarò così troppo pessimista, ma mi sembra un eccesso. Intanto preoccupiamoci di mettere d'accordo, se ci riusciamo, tutti gli europei insieme, Sarraj e Haftar, poi si vedrà. Quanto ai nostri soldati, avrei visto la prima pagina di Libero, certo. Molto, dice, spendiamo molti soldi per niente, i nostri soldati sono attivi in 30 paesi del mondo, follia, Iraq, Afghanistan, Libano, Niger, Kosovo e persino Lettonia, oltre 5.500 militari ci costano 1,4 miliardi, tuttavia l'Italia non ne trae vantaggio, non contenti, l'articolo di Tommaso Montesano, ne inveremo altri in Libia. Insomma, non mi sembra che sia un grande bilancio quello del vertice di Berlino, però non... Così cerchiamo è. Di non essere troppo pessimisti. Così è. Ovviamente il nostro interesse per la Libia è un interesse energetico, è anche un interesse che ha a che fare con la questione dell'immigrazione. Su questo fronte abbiamo oggi il voto sul processo a Matteo Salvini per la vicenda di nave Gregoretti e ieri coup de théâtre di Salvini che dice ai suoi: votate a favore del processo, no? Sì, ieri questo è un clamoroso coup de théâtre, perché ci si immaginava oggi uno scontro fra il centrodestra, che comunque continuerà a votare per evitare il processo, cioè Forza Italia e Fratelli d'Italia voteranno per evitare il processo. Quelli di Salvini, se seguiranno i consigli di Salvini, voteranno per il processo, gli altri non si capisce bene, 5 Stelle e PD, se si asterranno o cosa faranno. Ma devo dire che tutto questo gioco in commissione, chiariamolo bene agli ascoltatori, è inutile, perché comunque si voterà a metà febbraio alla Camera e lì stiamo pur sicuri che la maggioranza al Senato, e la maggioranza voterà per mandare Salvini al processo. Quindi è stata tutta una messa in scena in funzione di non dare a Salvini un argomento per l'ultima settimana di campagna elettorale in vista delle elezioni emiliane che si terranno, come noto, domenica prossima. Salvini, come tu hai detto, si è riconquistato la scena, tra l'altro anche con una seconda mossa, ti ricorderai, ne abbiamo parlato, che a metà settimana aveva convocato un vertice sull'antisemitismo molto frequentato da politici internazionali, soprattutto israeliani, ma disertato dai rappresentanti della comunità ebraica italiana. Bene, questa volta ha fatto una seconda dichiarazione in cui ha annunciato che se andrà al potere riconoscerà, come ha fatto Trump, Gerusalemme capitale di Israele, questione controversa. Sì. Gadlerne su Repubblica lo squarta vivo. Fiamma Nierenstein sul giornale invece lo incensa. Allora ti porterei, poi ritorniamo sulla questione elezioni in Emilia Romagna, perché ti voglio naturalmente sulle sardine, non possiamo risparmiarci oggi, però ti voglio portare invece a Teheran. Perché c'è questa foto sul Corriere della Sera che rappresenta una foto postata sui social da Alessandro Di Battista, che si trova appunto, che è stato in visita a Teheran, questa scena di lui concentrato a leggere un libro che racconta dell'Iran sulla metropolitana di Teheran. È un po', insomma, questo racconto del ritorno sulla scena di questo personaggio per il Movimento 5 Stelle. È vero, anche perché noi a Teheran, lui in questa foto è tutto infreddolito, insaccato in giacca a vento, che legge un libro sulla storia della mezzaluna. Lo scisma della mezzaluna, per l'esattezza. Sì, si vede bene evidente il titolo del libro, fa sorridere, però abbiamo lì sì un rappresentante. Il Corriere della Sera ironizza: il ribelle in metropolitana a Teheran. Comunque Teheran, hai ragione a segnalarlo, perché è ancora una piazza molto calda che, come abbiamo già detto, si è rivoltata, nel senso che prima era una piazza tutta a filo sul Khomeini, cioè il leader che è stato ucciso dagli americani il 3 gennaio. E adesso invece è una piazza di segno opposto, dopo le notizie dell'abbattimento dell'aereo ucraino, e in più ci sono strani casi, una annunciatrice televisiva che si toglie il velo, insomma la situazione non si è calmata, non solo sotto il profilo internazionale ma anche sotto il profilo interno. E forse l'attivismo di Battista, noi abbiamo le sardine, ma in Iran c'è un grande attivista che forse può dare un contributo alla rivolta. Non si è capito se Di Battista sostiene i rivoltosi o il regime, chissà. Però appena si capirà, capiremo anche dove pende la bilancia e chi può vincere, perché abbiamo questo notevole apporto. Traffico. Mattino. E veniamo alla tua grande passione, Paolo Mieli, una delle due quantomeno, è le sardine. Ieri la piazza di Bologna piena, 40.000 come dicono loro, 20.000 come dice la questura, poco importa, un concertone un po' in stile primo maggio per riaffermare la presenza a una settimana, no, dal voto in Emilia Romagna. Troviamo le foto un po' su tutti i giornali, anche il racconto di questa giornata. Sì, indubbiamente è un successo, adesso 40-20.000 non è importante, ma se pensate che dalla manifestazione in Piazza Maggiore, che fu, se non ricordo male, il 14 novembre a oggi, sono passati appena 2 mesi, le sardine non sono solo una mia passione, non lo dico per difendermi, ma sono il fatto che ha movimentato questa campagna elettorale, hanno portato sul palco Concita De Gregorio, la giornalista di Repubblica, ma anche Francesco Guccini, Pif, Manuel Agnelli, grandi canti, e i 4 leader delle sardine, ricordiamolo per gli ascoltatori: Mattia Santori, Andrea Garreffa, Roberto Morrotti e Giulia Trappoloni. C'è una foto su Repubblica dei 3 che prendono in braccio Giulia Trappoloni, tutti felici, perché dicono, Mattia Santori che parla, possiamo cambiare l'esito delle elezioni. Mattia Santori negli ultimi giorni, nomino lui perché è quello più conosciuto, quello che va più in televisione, ha fatto pronostici molto molto ottimistici, vinceranno le elezioni e le sardine saranno, ha detto, un fattore di svolta epocale, cioè che la vita politica italiana, almeno quella della sinistra, si calcolerà come prima delle sardine e dopo le sardine. Io sono prudente e ti dico che se il 26, cioè se domenica prossima vincerà Bonaccini, delle sardine si parlerà ancora. Se invece dovesse perdere Bonaccini, vedrete le contumelle che arrivano sulle sardine, che fu un'esagerazione, che è stata tutta una messa in scena. Mi ricordano i poveri striscioni, vi ricordate quelli che accompagnavano le manifestazioni di Salvini in tutta Italia prima delle elezioni europee? Sì. Oggi quale giornale parla più degli striscioni, quelli che mettevano... E quindi la storia di questi movimenti è legata, siccome non sono strutturati, è legata alla vittoria di candidati, tra l'altro di altri partiti, perché loro non sono un partito. Se vincono va bene, finché vincono vanno bene, se dovessero perdere, allora saranno dolori, e lunedì prossimo, quando faremo la rassegna, verseremo lacrime se dovessero perdere sulle sardine. Ascolta, ti porto in Tunisia, perché ieri è stata la giornata a 20 anni dalla morte di Bettino Craxi, con un migliaio di persone, tra cui naturalmente i figli, raccolti ad Hammamet, e ovviamente un ritorno di riflessione, poi ce ne occuperemo anche più avanti con Maria Latella nella parte di 24 mattino alle 8.35. Ecco, però ovviamente tracce sui giornali ne troviamo dappertutto, con i consueti accenti, no? Da una parte critici, penso soprattutto al Fatto Quotidiano, dall'altra parte invece riflessioni un po' diverse sulla figura di Craxi. Sì, il Fatto Quotidiano è quasi insultante: Craxi, pellegrinaggio trash per cancellare la storia e le tangenti. Sono giorni che il Fatto Quotidiano ogni giorno rievoca le tangenti, proprio cifra per cifra, dicendo: ma quale esule, quello era un latitante, vergognatevi voi che andate ad Hammamet e che fate celebrazioni anche qui in Italia. Però qualcosa si è smosso sicuramente nell'opinione su Craxi, tant'è che la figlia di Craxi, Stefania Craxi, ha annunciato che il capo dello Stato Mattarella la riceverà in segno di considerazione per suo padre, e questo è sicuramente un fatto rimarchevole. Uno di coloro che più hanno sostenuto Craxi, però, che si chiama Filippo Facci e scrive sul Libero, fa un bilancio amaro e immagino un articolo scritto, un fantarticolo scritto nel 2050, in cui secondo lui nel 2050 saremo ancora al punto di oggi. Non è stata una riabilitazione, ma è stata una cosa in cui coloro che avrebbero dovuto scusarsi, così scrive Facci, hanno fatto così una messa in scena non grandemente importante, no, non grandemente importante. Del resto in Italia sì, queste cose della memoria si risolvono lentamente, e lo posso dire con avendone verificati molti di questi casi, raramente quando è ancora in vita la generazione coeva dei fatti si possono dare giudizi sereni. Ognuno torna a dare il giudizio che dava all'epoca dei fatti stessi. Bisogna certo aspettare una o due generazioni per arrivare a sì, qualcosa di più di condiviso, quantomeno di parzialmente condiviso. C'è una polemica a proposito di persone scomparse, insomma è recentemente scomparso Pansa, e c'è uno scontro all'arma bianca tra Tommaso Montanari e Aldo Grasso, insomma un po' una roba da giornali, però insomma parliamo di un grande giornalista ovviamente, e soprattutto di quel suo lavoro sulla Resistenza che tanto fece discutere, no? Sì, Il sangue dei vinti, il libro che parlava delle nefandezze, dei delitti commessi dai partigiani nell'immediato dopoguerra, stiamo parlando ovviamente del secondo dopoguerra. Montanari, quando è morto Pansa, ha scritto un articolo molto violento, dicendo, ma quello ha scritto dei libri schifosi, si è prestato a operazioni politiche schifose. Grasso, con delle parole sensate, ieri sulla prima pagina del Corriere della Sera lo ha accusato un po' di esibizionismo, e oggi Montanari gli risponde sempre sul Corriere della Sera, i due se le danno ancora di santa ragione. Ma questo è, ovviamente ha ragione Grasso, le sue motivazioni sono molto molto ragionevoli, ma non è importante questo, è che è impossibile, come dicevo prima per Craxi, dare un giudizio sereno finché sono in vita quelli che si schierarono pro o contro, perché certo, è normale che avvenga così, è stato sempre così, è normale che ognuno dia forza alla sua lettura precedente, e a nessuno gli va di scusarsi e dire guardate mi sono sbagliato, sì, o almeno lo fanno molto pochi, e quando lo fanno in una maniera che spesso risulta falsa. Grazie Paolo Mieli, anche per oggi ti ritroviamo mercoledì, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo, parleremo di Libia, parleremo anche di Craxi, vi aspettiamo al 349-238-6666, sms, messaggi su WhatsApp, anche audio, è l'800-24-0024, a tra poco.